vivo quanto d'ora di me stessa proprio un puro tutto è felice di cuore tutto è stabilito che la tiri in oro per suo marito. Ma come? Ehi, non è turco. Che importa a me? Ma di Maometto la legge non permette un tal pasticcio. Altra legge io non ho, è il mio capriccio. Mi intendi? Signor sì. Sentimi ancora. Per passar bene un'ora io non ritrovo una tra le mie schiave che mi possa piacer. Tante carezze, tante smorfie, non son di gusto mio. E che c'ho da fare io? Mi dovresti trovar un'italiana o una gran moglie, già per una di quelle signorine che da martello a tanti cicisbei. Io servirvi vorrei, ma i miei corsari e l'incostanza del mar. Se fra sei giorni non me la trovi e se vi far lo scaletro, io ti faccio impalare, non occorre altro. Thank you.

sì della sorte e osso fare differente mangiarose pertinente io so stanca di soffrire sì so stanca so stanca so stanca di soffrire sì so stanca so stanca so stanca di soffrire sì di soffrire sì di soffrire sì di soffrire oh più flemma e più prudenza di qualunque innamorato oh più flemma e più prudenza di qualunque innamorato ma commento del passato tutto quel che può venirsi compendo tutto quel che può venirsi compendo tutto quel che può venirsi altra è un precipizio meglio un turco che un piccone meglio il fiasco che l'ampione meglio un turco meglio il fiasco che un piccone che l'ampione meglio il fiasco meglio il fiasco vanne al diavolo di malora più un nevone più un fuoco di garri sì, signora, ho finito d'impazzir. Cannadio, buonanotte, volo in malora. Buonanotte, più non fo. Ho finito d'impazzir. No, buonanotte, sì, signora. Buonanotte, più non fo. Sarà quel che sarà, sì, sarà quel che sarà. al mio fuoco, al trasporto, al desiderio, al resiglio. Cristo è l'acceso cuor mio, questo caro trionfo lamento, quanto dolce quest'anna sarà, al mio foco trasporto al desio, non resiste l'acceso cuor mio, questo caro trionfo lamento, quanto dolce a quest'anna sarà. Voi partite, m'annoiate, partite, m'annoiate, ora seco, non passiate, non venite, non venite. Al mio foco, al trasporto, al desio, non resiste l'acceso cor mio, questo caro trionfo bello quanto dolce a quest'alma sarà, quanto dolce a quest'alma sarà quest'alma, quest'alma sarà, quanto dolce a quest'alma sarà, sarà quest'alma, quest'alma sarà, quanto dolce quest'alma sarà, quanto dolce quest'alma sarà, quest'alma sarà, quest'alma sarà. Già disposto l'ascello a saltar e non attende altri che noi. Voi sospirate. Almeno ch'io possa ancora volta riveder Mustafa. Sol questo io bravo. Pria di parli ti dobbiamo congedarsi da lui, ma se vi scaccia perché l'amate ancor, fate a mio modo, affrettiamoci partiti di allegramente, e voi siete finalmente giovine, ricca e bella, e al mio paese voi troverete quanti può una donna bramar, mariti e amanti. Thank you. Costruita la paura, la paura di me stesso. Oh!

sua crudeltà. Sono questi l'amor tuoi doni, sono questi tuoi diletti, a tu sostenga questa signorina è tale che io ne sembro innamorato. Ma, signor Mustafa, che cos'è stato? Abbiate compassione di un innocente, io non ho fatto niente. Ma spiegati, cos'hai? Mi corre dietro quell'amico del palo. Capisco, è questa la cagion del tuo spavento. Forse il palo in alceri è un complimento. Eccolo, ahimè. Non dubitare, e vieni d'ordine mio per onorarti. Io voglio mostrare quanto mi cara tua nipote, perciò t'ho nominato mio grande Caimacan. Che grazie obbligato! Ascoltatemi, colpa di me, ascoltatemi. fare un conto. Se ricuso, il palo è pronto. E se accetto, è mio dovere di portargli le candeliere. Ma Matteo che vivi è questo, Matteo che vivi è questo. Ma quel palo, ma quel palo, Matteo, che ho da far, che ho da far, che ho da far. Caipa canzigno, io resto, non ti voglio disgustar. Caipa canzigno, signor, io resto, non ti voglio, non mi voglio disgustar, no. Thank you.

come sto, questo cuore, questo cuore, pensa adesso come sto, questo cuore, questo cuore, pensa adesso come sto. Nelle vene un poco più non mi so frenar, nelle vene un poco più non mi so frenar, no, non mi so frenar, no, non mi so frenar. Sento freddo, un poco di freddo, un poco di freddo, agitato, agitato, un poco di freddo. solennità fra canti e suoni, piana tremolar del che mai sento? Papà taci, che mai sento? La ringrazio, son contento, son contento, son contento. Ma di grazia, papà taci. Che vuol poi significare? Acqua, vuota, coloro che mai non sanno disgustarsi, disgustarsi col ben stesso. Che piacere, io non ho la sola, ma

lieto di entrar merito nel vostro cielo, sarà una grazia particolar. Thank you. Ehi, che cos'è? Tu non fai quel che hai giurato. Tu non fai quel che hai giurato. Or ti insegno, or ti insegno. Vada a me, or ti insegno, or ti insegno. Vada a me. Pataci, mio amore, mangia i taci, mio pataci, mio amore, mangia i taci. Basta, basta, basta, basta, corona mia, corona mia. Saper far meglio di te, aver capito, aver capito, saper far meglio di te, aver capito, aver capito, saper far meglio di te. Perdona, 天的歌舞剧场就到这里，感谢您的收听，欢迎关注北京音乐广播古典有限频道下面的精彩节目。